L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità, sparo. Diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets, ain't an exit now. Ragazzi, qui c'è da incazzarsi, ma veramente di brutto, caro Parenzo, veramente di brutto. Ciao, cioè, Pistola. Ciao, come Pistola? Ah, Pistola, ciao, quella mostrata in televisione da Bolano. No, ma, ciao Pistola, qui si dice a Milano, ciao Pistola. Adesso fra pochissimo il caso del giorno del nostro eroe. Cos'altro si può fare? Per carità, introduciamo pure credo tutto. Cagare in studio, cagare in uno studio televisivo. Beh, ci quello, scorreggiare, cagare. Quello viene fatto con le parole normalmente, quindi non... No, ma cagare materialmente, credo che si possa arrivare a questo. Però io lo difenderò. Ti dico subito che difenderò il gesto di Buonanno. Non avevo mostrare dubbi. La pistola in televisione, un grande gesto politico. Una pistola vera, però diciamolo almeno. Sì, subito. Un grande gesto politico, un grandissimo gesto politico, perché è normale, la politica si fa in tanti modi. È normale. No, è normale. La politica si fa in tanti modi, si fa in tantissimi modi. La si fa con le parole pacate, la si fa facendo un po' i clown, facendo un po' di cinema, la si fa in tanti modi. La si può fare anche essendo Buonanno a favore. Anche giocando con le pistole, dici, vede? Sì, pistole con il caricatore giocando. Tolto. Ma adesso ci spiegherà tutto Buonanno, che peraltro so che riceve pressioni per non parlare. Di questo anche discuteremo. Però la cosa per cui sono incazzato io oggi non è Buonanno che fa il suo mestiere, cioè quello di fare un po' di cinema in televisione. E clown. No, un po' di cinema in televisione su cose concrete come la storia delle armi, come la storia della legittima difesa, eccetera, eccetera. Ma per la questione degli assenteisti di Sanremo, io non so se abbracciare fortissimo, perché è un genio, perché c'è della gente che ha del genio, ragazzi, c'è poco da fare. Uno che va in mutande a timbrare il cartellino, in mutande, e poi torna a casa a dormire. Incredibile. Cioè, no, tu stai morendo ormai. Oh, tanto però ieri ti ho visto vivo in televisione. Come mai qui tossisce in televisione? No, è strana come cosa. No, intanto avevo sotto il carrello di formigli, come si chiama? Il... Che cosa? Oh, mamma mia, il tavolo. Avevo un bicchierino d'acqua. A me che c'entra? Con dentro... Perché non te lo puoi portare pure il radio, bicchierino d'acqua? Ce l'ho anche qua, infatti, però con ma perché dentro non tossivi questo... lì? Perché lì non tossivi? Tossivo. Infatti c'è un momento in cui a un certo punto ridono tutti. Perché... Allora, uno che va a timbrare il cartellino in mutande e poi va in e poi torna a casa è un genio, ragazzi. È un genio perché sa di essere impunito, cioè sa che non c'è nessuno che gli romperà i coglioni. Chissà per quanto tempo lo ha fatto questo qua. Certo. Per cui non bisogna arrabbiarsi con questo che va cacciato a pedate nel sedere anche ieri. Cioè non oggi né domani, ieri va cacciato a pedate nel sedere. Come l'altro che si faceva timbrare il cartellino dalla collega e che diceva che era fuori per motivi di formazione, invece non era vero. E cioè quello che andava a fare canoa. Beh, ragazzi, a Sanremo che bisogna fare? Canoa, è normale, no? C'è il mare. Beh, stupendo. Pazzesco. Attenzione, amico mio. Stupenda battuta di Antonello Fassari, se non sbaglio, su questa cosa qua del mare di Sanremo, oggi. Tutti questi discorsi non mi meravigliano affatto. E ragionando da italiano, diciamo che a Sanremo c'è il mare, il sole, il casinò. Perché uno non dovrebbe andare in costume da bagno a stimbrare un cartellino? Oh, sentite questo sindacalista, o questa, non so chi è, questa, si chiama Speranza della UIL. Credo che verranno sospesi. Ma la vuoi prendere una cazzo di posizione, sindacato o no? Cioè, signora della UIL di Imperia, direi. Credo verranno sospesi. Cioè, uno che, per carità, poi ci sono le indagini e tutto quanto. Se uno viene ripreso, perché ci sono le telecamere, che è in canoa, cioè se corrisponde il momento in cui sei in canoa con quello in cui dovresti essere in comune, ma che procedure bisogna fare? Che procedure? Nessuna, cioè coincide, cioè, i due tempi. Dovevi essere in ufficio, verificarlo e basta. Dovevi essere in ufficio, sei in canoa, dovevi essere in ufficio, sei in mutande in camera da letto dove avete timbrato il cartellino, ci sono le telecamere. Ma io non so, ma è la flagranza del reato questa qua, no? E invece credo che verranno sospesi. Quei signori che abbiamo visto timbrare il cartellino e andare a fare la spesa, verranno cacciati, sì o no? Sì. Credo che già oggi saranno intanto sospesi dal lavoro. Poi ovviamente a casa, signora, non sospesi. Questa in realtà, poveraccia, aggredita in studio, voleva dire: beh, intanto verranno sospesi, poi vedremo, probabilmente verranno cacciati. Però dai, più coraggio, amici sindacalisti, amici, cioè amici per modo di dire. Dite che questi vanno cacciati a pedate nel culo. Con la restituzione dei soldi, perché c'è pure il danno erariale, come si dice in gergo, Ragazzi, torniamo ai fucili. Vai con buon anno oggi, Sky TG24 mostra una pistola, adesso ci spiegherà tutto. Diamo il buongiorno a Gianluca Buonanno. Propone un bonus 250 euro, no, sindaco? Circa il 30% del costo di un'arma da fuoco. Beh, si presenta con la pistola, addirittura critica e dice: beh, così si aumenta, però no, cioè diventa il Far West, Borgosesia, il paese. No, per fare un esempio. Sparare. È un esempio. Non usciamo le pistole, guardi, la metta giù. No. Non c'è bisogno. Che ce la fa vedere Buonanno. Le dicevo, la pioggia di critiche che sono arrivate al suo indirizzo. Io allora ho pensato, nel mio piccolo rappresento le istituzioni come sindaco, okay? Però le dicevo, lei non pensa di invitare poi ad un eccesso di giustizia fai da te? No, perché la gente che mi chiederà il contributo intanto deve avere l'autorizzazione della prefettura e della questura per detenere l'arma. Io do un contributo di un terzo rispetto a quello che costa una pistola, cioè tipo questa pistola qua costa circa 750 l'abbiamo, euro. L'abbiamo vista la pistola, io do la un terzo, cioè 250 euro. Sindaco, la invitiamo a abbassare la pistola perché buon anno, io. Insomma non è caso, Io spero che prenda provvedimenti il Parlamento europeo, il suo comune, perché lei non può andare in televisione e brandire una pistola. Cioè, ora finché va in aula e mostra i pesci, ma non c'è il butti sulla pistola, ma la smetta. Insomma, io non l'abbiamo invitata lei. Davvero, e l'abbiamo invitata per parlare della sua proposta e anche per capire un po' come lei. Liuzzi del fatto, non parlo con lei, Buonanno. Bravo, giusto. Ma che vuol dire non parlo? Parlo con lei, Buonanno, con uno con una pistola. Parla con i peggio vostri durante il giorno, non parla con Buonanno perché c'ha la pistola in mano. Professor Platero, mitico Platero, che può parlare dei guns qui, ma abbiamo in collegamento Gianluca Buonanno, il protagonista. Di questa... Io fossi stato in collegamento come Liuzzi, avrei fatto la stessa cosa. Ma non è vero, non avresti fatto lo stesso. Poi avrei preso il mio telefonino in diretta e avrei in diretta chiamato la polizia, in diretta, dando le coordinate. Ma sei veramente un cretino, lo sai che sei veramente un pazzo? Il fermo, ma il perché fermo il fermo di un idiota. Allora, però aspetta, che mi fai... sventaglia una pistola senza averne. Non è carica, non c'è il caricatore. Però aspetta, fermo là, mi fai spiegare con Buonanno quello che è successo invece di cominciare a fare il pazzo. Stai un attimo ad ascoltare. Poi di quello che ti pare. Hai due ore e mezza per difendi dire quello che vuoi. Difendi il tuo amichetto. No, io non sto avanti, difendendo forza, nessuno perché non ho amici, come sai. L'amichetto ma non c'è nessun amichetto. Io ho detto semplicemente ognuno fa politica come crede. Goliarda, l'amichetto. Buon anno, buonasera. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, io voglio capire una cosa. Questa pistola, ricostruiscimi un attimo la situazione. Tu sei invitato da Sky TG24, no? Come ti viene in mente di tirare fuori una pistola? No, beh, dice, che stronzata posso fare oggi? Sky TG24 mi chiede un'intervista. Io però stamattina avevo consiglio comunale, quindi ho detto prima faccio il consiglio comunale e poi facciamo l'intervista nel mio ufficio, quindi all'interno del municipio. Sì. Prima di fare consiglio comunale io sono consueto a fare la preconsigliare, quindi con i miei consiglieri, prima del consiglio, e vedo un vigile e chiedo: senti, non è che magari hai una... carcassa di pistola, qualcosa che io vorrei poi intanto spiegare ai miei consiglieri. Cioè, ha coinvolto un vigile. Zitto. No, ma è pazzesco. Aspetta, allora? Ha coinvolto un vigile. Mi hanno portato una carcassa di pistola. Cosa vuol dire carcassa? Una carcassa, cioè. Ma è un criminale. È come, ma se quale fosse carcassa? Io non so manco se era vero o finta, nel senso che. Cioè, adesso metti in mezzo il vigile, poveretto. Manca il motore, no? Adesso sarà colpa di vigile. Mi fai spiegare un attimo, poi fai le tue critiche, un attimo. Allora, io non ho capito. Hai chiesto a un vigile una pistola? No, ho chiesto a un vigile se poteva vedere come era fatta una pistola, una simil pistola, perché io non sono avvezzo ad avere questi aggeggi, non ho un porto d'armi, non ho niente. Vabbè, ma lui che ha fatto? Ha tirato fuori la sua pistola? No, no, io sono andato in consiglio comunale. Con la pistola. E quindi sono uscito dall'ufficio. Sono andato in consiglio. Quando sono andato al consiglio comunale, sul mio tavolo c'era questa... questa carcassa di pistola. Cioè, carcassa, è una pistola senza il caricatore. Io le chiamo carcassa perché non ti so neanche dire come si può pronunciare. Beh, scusami, comunque, però Gianluca, vabbè, la pistola era vera. Che buffone. Immagino di sì, perché è di ferro. Immagino di sì. Che carne malata. Ho fatto immediatamente la diretta. Io ho preso questa carcassa di pistola, quindi impossibile che ti è stata data da un vigile, allora. Possiamo, l'hai chiesta a qualcuno, è che è spuntata come un fantasma? Cioè, no, certo. No. Datami da un vigile. Oh, la pistola me l'ha dato un vigile del tuo comune. Certo, sono di chi era sta pistola? Non è che le pistole nascono dal nulla, era sua. No, però magari, che ne so, adesso io non ti so dire, perché poi il vigile neanche più l'ho sentito, ma non vorrei che fosse magari una scacciacani, non lo so. Capito? Cioè, però scusami, ragazzi, dobbiamo, Gianluca, deve essere, fatta un'inchiesta. Uno, però, deve saltare fuori il nome del vigile. Primo, la cosa è molto grave e non c'è da ridere. Aspetta un attimo, voglio chiarire fino in fondo. Allora, io non capisco. Siccome le pistole, voglio chiarire. Salvalo. Al contrario, io dico semplicemente una cosa: siccome le pistole, il soccorso rosso della ma non c'è nessuna soccorso rosso. Verde, sto cercando di capire quello che è successo. Spiego come è andata. Allora, appunto, stiamo spiegando come è andata. Secondo te, naturalmente, allora, secondo me. Cioè, ci sono tutti i testimoni, no, certo, io voglio dire una cosa: la pistola te l'ha data un vigile, dunque è una pistola vera di un vigile. Ma mettere nei guai un altro lavoratore, ma pensa che gente è questa qua, mette pure nei guai un lavoratore del suo comune. Ma incredibile proprio. Vabbè, la pistola di qualcuno è. Parenzo, la pistola di qualcuno è. Gente miserabile questa. Miserabile. Non so se è una scacciacare una cosa, ma al di là di quello, non c'è il voi, è come se fosse una macchina senza il motore. Sì. E capire, quindi è come se fosse un pezzo di ferro, perché non ha niente. Cioè, era senza caricatore, ma di chi è sta pistola? È stato fatto anche vedere in televisione. Vabbè, era completamente vuota, come se fosse una macchina senza motore, come se fosse, diciamo, un corpo. È una macchina senza motore, cioè non ha alcuna. Appunto, è come un corpo senza cervello, come il suo. Un corpo senza cervello, è come il suo. Un corpo senza cervello. Fai la battuta, va bene, d'accordo, ci sta la battuta. Sei patetico, Parenzo. Comunque, io, un idiota, va in televisione con una pistola. Aspetta. Subito dopo, non ho avuto tempo perché è finito il consiglio comunale, sono arrivato lì, c'era questo programma che dava dalle 10:30 alle 11:00. Io ho finito il consiglio comunale alle 10:30, sono arrivato nel mio ufficio, tempo di arrivare, questi hanno preparato tutto di corsa. Chi? E cosa ho fatto? Mentre hanno incominciato il programma, io volevo solo fare un esempio lampante del fatto, se io do 250 euro previa autorizzazione questura e prefettura, perché io non do i soldi. Vabbè, tu volevi fare un esempio che... esempio dicendo, vedete questo attrezzo qua che comunque era senza nulla e quindi una carcassa, sì. Che costa più o meno 750 euro, il terzo viene pagato dal comune. Chi questo te l'ha detto? Hai chiesto quanto costa quella pistola? Ma quanto costa mediamente una pistola? Sulle 750 euro. Però scusami, Gianluca, non dobbiamo prenderci per il culo su questa cosa qua, perché se uno fa una cosa la fa, diciamo, in piena coscienza, anche se fa una provocazione, anche se vuole fare una goliardata. Allora, quella pistola, siccome tutte le pistole sono registrate, quella è una pistola vera, non è una pistola giocattolo, giusto? Appunto. Non è una pistola giocattolo. Io penso che sia vera. Ma però, come pensi? Prende una cosa in mano e non sa se è una pistola vera. No, altra cosa grave. Ma io non so nel servizio, cavolo. Cioè, uno mette. In quel cazzo di comune, chiunque può entrare nel suo ufficio e mettere qualunque cosa sul tavolo? Bello. Bello. Ma te l'ha data in mano? E allora come c'è. La pistola te l'ha data in mano o l'ha lasciata sul tavolo? Ha detto che l'ha trovata sul tavolo. Allora, ognuno può mettere quello che gli pare in quell'ufficio. Nel mio ufficio c'è la persona lì all'interno. Quindi qualcuno avrà visto. Lì, quindi io sono arrivato che era lì. Vabbè, comunque, qual è il vigile? Chi è il vigile? Deve fare la staffetta, no? Ma di chi è il vigile? Di chi, cioè, chi è il vigile? No, adesso non dico chi è il vigile. Di no. Chi è la pistola? C'è un nome Ci sarà un'indagine sicuramente, perché non è che un vigile può dare, un funzionario del comune vigile che è autorizzato a portare la pistola, può su ordine del nano sindaco mettergliela sul tavolo, sì, sul suo ordine. Prossima, ma ti rendi conto? Ma è veramente incredibile. Ma ti devono indagare a te. Ma te ti devono indagare a te. Ma che parli? Un'altra volta io metto giù, perché ma che cosa mi però scusa. Ma pensa a te. Davide, però, scusa, okay? Adesso parliamo di una cosa concreta, non c'è bisogno di dire nano sindaco o cosa. Vabbè, ho capito, adesso stiamo parlando di una cosa concreta, perché questo, altrimenti non di una gravità inaudita, questo va in televisione con una pistola, si mette nei guai uno dei suoi funzionari del comune pagato 1.000 euro al mese. Ma ti rendi fermo conto che c'è il traffico? Fermo, c'è il traffico. E poi fammi chiarire fino in fondo questa cosa. Poi puoi sfogarti per 2 ore e mezza. Digli quello che ti pare, ma fammi chiarire questa roba. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord, che è successo? Che è accaduto a Buonanno? Parenzo, ma perché devi... Uno deve portare fino in fondo le cose, no? Cioè, richiamate un attimo Buonanno, dai, su. Voci sulle armi, adesso ripigliamo Buonanno, Se vedo il coglione sotto casa che gli sta scassinando la macchina al vicino di casa, scendelo, gonfio come un pallone. Dateci una settimana, che lo Stato chiuda gli occhi come ha sempre fatto, che i carabinieri si girino dall'altra parte come hanno sempre fatto quando noi li denunciavamo. E vedi che domani tu non vieni a rubare a casa mia. C'è il porto d'armi? Io non ce l'ho il porto d'armi, io ho queste di armi, le mie mani. Queste mani ammazzano, un dito ammazza, una penna ammazza. Allora, Gianluca, Salvini ha detto che non si può portare una pistola in televisione. Io l'ho sentito il segretario. Cioè... Che ti ha detto? Ti ha rimproverato? Ma no, io ho chiarito le cose, ovviamente lui è il segretario della Lega, giustamente mi ha fatto notare delle cose, però ci siamo chiariti. T'ha cazziato, dai, su o no? Sì. No? No, ci siamo chiariti, non è che... Cioè, mi ha detto bisogna fare più attenzione a queste cose, però è giusto quello che dice lui. Io ti ripeto, io voglio solo fare un esempio vero, e cioè che questo Stato, se mi fate parlare un attimo, secondo me il ragionamento è questo Stato che fa le depenalizzazioni dei reati, che fa gli svuotacarceri, praticamente fa in modo che la sicurezza vada a farsi benedire, e non ce l'ho con le forze dell'ordine che anzi... Vabbè, tu hai fatto questa proposta però, no, ma fammi finire, perché sennò sembro davvero che sia arrivato dalla luna. Questo ragionamento è la stima che ho verso le forze dell'ordine, perché succedono episodi ormai dove anche il delinquente che prendi ultimamente, 4 giorni fa ne ha preso uno che rubava un sì rumeno, lo so, me l'hai già raccontato l'altro giorno, dai, con la lascia. No, però io, ma questo ce l'hai già raccontato, Gianluca. Il giudice gli ha detto, viene a firmare. Ho capito, però portando una televisione, facendo vedere in televisione una pistola, c'è un elemento di provocazione che per me ci può anche essere, per Parenzo no. Sì. E una pistola scarica senza caricatore, come dici tu, una carcassa. Sì, una macchina senza motore. Una macchina senza motore, per Parenzo è una follia, una roba che per cui dovresti essere indagato. Sono un'ipocrisia, però, perché in televisione ci vedono gente che sgozza, succede di tutto e di più. Io ho fatto una, diciamo così, una proposizione di quello che era la realtà, di quello che posso dare come soldi rispetto a quello che... Sì, ma c'era bisogno di mostrare la pistola, secondo te? Ma no, io non, guarda che non era premeditata questa cosa. Cioè, ti è venuta sul momento, ma se l'ha chiesta al vigile. Ma se l'ha chiesta al vigile, se l'è fatta portare sul tavolo prima che iniziasse la trasmissione. Ma quanto ti ma sembra veramente l'alunno stupido richiamato dalla maestra. Ma è incredibile. Ma per quella proposta abbiamo capito. Ma ero in consiglio comunale. Hanno attrezzato tutto. Ho chiesto al vigile di mettermela sul tavolo. E il vigile sarà coinvolto. L'hai detto tu prima. L'hai raccontato tu prima. Hai messo nei guai un poliziotto che adesso purtroppo dovrà essere sentito. Il vigile? Ma sul tavolo era posato una cosa senza niente, quindi come la macchina senza motore. Vabbè, sempre pistola era. Era lì a due passi. Quando tu eri in televisione, il proprietario della pistola, mentre tu eri in televisione, dov'era? Il proprietario della pistola. Vabbè, quello che ce l'aveva legalmente, dai. Tu non è che ognuno è proprietario di una pistola, non è che funziona così. Ma com'è? Sua? Come no? Ognuno ha la... Scusa, ma tu come pubblico ufficiale, come sindaco, puoi impugnare una pistola? Questo ancora non lo so. Assolutamente no. Non puoi impugnare. Io non ho il porto d'armi, non sono uno... Devi avere il porto d'armi per impugnare una pistola. Di queste cose. Mi hanno offerto più volte per la mia sicurezza, mi hanno detto è meglio che prendo il porto d'armi, io sempre. Ma ti penti di quello che hai fatto o no? Sì o no? Secco, sì o no? No, ma non mi pento nel senso che non ho fatto niente con cattiveria, cioè per fare chissà che cosa. Ho capito, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Televisivi ieri sera, Parenzo contro Giorgia Meloni, Piazza Pulita, vai Parenzo, battaglie, grande battaglia ieri sera, abbastanza, grande battaglia, dai, miserabili, è normale, prendete per il culo con le parole, prendete per il culo la gente. Non vorrei che ciò avvenisse perché siccome nel 2017 non ci sarà più il finanziamento pubblico ai partiti, qualcuno sta pensando legittimamente di farsi finanziare la campagna elettorale dalla lobby delle armi, che esiste anche in Italia. Poi aggiungo una cosa. Allora facciamo una cosa. Meloni, siccome devo andare alla pubblicità, parlo per me, è un fatto che sto facendo questa campagna perché penso che sia giusto. La legittima difesa esiste già, onorevole, in Italia. Chiunque, chiedo scusa, infatti lei la legge l'ha fatta il centrodestra. Questa è veramente la dietrologia, però, Davide. Immaginavo che anche tu cascassi nel tranello. Ho capito, non è che questi qua che cosa fanno? Ci vogliono fare finanziare delle lobby delle armi e dunque dicono che gli italiani devono armarsi di più? No. Loro già la campagna la fanno a prescindere dal finanziamento, perché loro credono che armarsi di più e difendersi da soli e cambiare la legge sulla legittima difesa sia cosa da fare per il proprio elettorato. Legittima battaglia politica. Dopodiché è un altro fatto che nel 2017 i partiti dovranno andare a cercare persone disposte a finanziare. Allora? E quindi è molto verosimile che facendo loro una campagna a favore della legittima difesa, cioè che il signor Beretta si metta a finanziare Fratelli d'Italia, la Lega, allora, questa roba giro, qua, a parte giro, che finanziano tutti se allora vogliono. Appunto, ma allora giro la cosa, negli Stati Uniti è trasparente, non ci sarebbe niente di male poi, tra l'altro, e l'ho detto, infatti sarebbe normale, trasparente, molto più semplice e molto facile che la Beretta vada da loro piuttosto che da Rifondazione Comunista, giusto? Sì, magari la Rifondazione ma dal PD sì, possono andare. Il PD è contro armatevi e sparate. Non lo so, mentre loro stanno costruendo, non dice nulla, per stanno cui, costruendo addirittura una campagna. Cioè addirittura mi pare un signore che è televisione con una pistola, mi pare addirittura una facendo pistola, pubblicità. Una pistola. No, dice che bisogna una pistola, dare soldi alle persone per l'acquisto di una pistola. In America è normale che le lobby finanziano i partiti. Da noi la lobby tra l'altro l'Italia è il primo produttore di armi. Sì, ma qua che cosa c'è di strano? Non ho capito. Cioè, ma tu lo vedi come una cosa oddio, i produttori di armi. Ma qual non è lo problema? Dicevo con tono strano. È lei che si è indispettita dicendo no, è la mia battaglia, figuriamoci. Non pigliamo per il culo, scusi, non pigliamo per il culo chi ci ascolta. Calmo, intanto voi buoni, perché non si può dire. Io non prendo in giro nessuno, sono una persona seria. Sto dicendo questo. No, ha fatto disinformazione, perché ha paragonato un caso di una persona condannata. No, uno condannato con uno indagato e manco rinviato a giudizio. Sto dicendo che. Allora, famiglia cristiana. Tannata. Ma che cosa? Non ho capito niente. Qual era la storia? Qual è la storia? Perché lei faceva l'esempio di una persona che è stata condannata per aver sparato. Condannata. Un episodio di tanti di cronaca che citava. E lo paragonava al pensionato che è stato semplicemente indagato, cioè dicendo: vedete la magistratura? Invece, poverina, non ha ricordato apposta, perché altrimenti la sua tesi sarebbe caduta immediatamente, che uno è il caso di un processo definitivo. Questo manco è stato rinviato a giudizio, il pensionato. Anzi, oggi i PM dicono che probabilmente ci potrebbe essere la legittima difesa. Esatto, quindi ha fatto un po' la furbetta. Va bene, Francesco da Milano, vai. Fra poco torniamo su Buonanno, Francesco da Milano con una pistola in televisione. Francesco Milano, vai. Buonasera, volevo parlare con Parenzo. Sì, dimmi. Mi sente? Dai. Volevo dire come mai lei continua a Buonanno e a Salvini a mancargli di rispetto. Lei voleva essere rispettato, perché lei non rispetta, perché non lo fa con Sgarbi, perché non lo fa con gli altri politici, perché quelli gli pisciano in bocca. Beh, questa è una espressione che fu utilizzata dal professor Sgarbi poco più di 2 anni fa durante una nota trasmissione televisiva che durò solo una puntata. Fu forse usata da un deputato della Repubblica, da un senatore della Repubblica nei confronti di povere suorine che non volevano soggettarsi ai suoi capricci, ma lui smentisce anche di fronte al Papa, e adesso la utilizza lei a proposito di Parenzo. Come gli hanno detto alla nera là, come si chiama la negra, la Cheyenne lì, gli hanno detto che era un orango, là gli hanno denunciati, gli hanno detto a Borghese che era un zing, gli hanno processati, allora Parenzo sarebbe da processarlo tutte le sere. Perché? Giusto? Che ha fatto? No, veramente parolacce che ha detto lì adesso a Buonanno. No, ma gli ha detto che lo considera uno, com'è che gli ha detto a Buonanno Parenzo? Non ho capito. Ma è buffone tutto. No, buffone un po' di più anche. Idiota. Sì, può essere un vabbè, ma che vuoi fare? Non ho capito, Francesco, che vorresti? No, mandare processare Parenzo? Non ho capito. Volevo parlare con Parenzo, però l'albanese che è stato ucciso, era meglio che moriva l'albanese o l'italiano, perché c'era uno o l'altro. Beh, non tutte le rapine finiscono così, o l'uno o l'altro, altrimenti ci sarebbe un'ecatombe. L'albanese, e l'abbiamo risolto il problema dell'Italia, perché quello lì era solo qua a far danni. Quindi abbiamo risolto. Sì, ecco. Abbiamo risolto col morto, sicuramente, diciamo, in modo definitivo, questo sicuro. Ma questo alla società italiana faceva solo danni. Intendo questo, o faceva del bene? Però io dico una cosa, Parenzo, questo qua io potrei anche non essere d'accordo con le parole di questo signore, anzi sicuramente non sono d'accordo, però è una cosa molto comune, non ti credere, non solo di Francesco da Milano, moltissime persone pensano che il ruolo di questo signore che è andato a rubare a casa del pensionato sia un ruolo di cui possiamo fare a meno, in fin dei conti, alla società italiana era un danno continuo, un danno continuo. Buon anno, la pensi anche tu così, Gianluca? Sì, aveva il decreto di espulsione, era stato espulso e era ancora in Italia, quindi era inutile, era una persona inutile, non è che è inutile, però uno che è stato espulso, che continuava a fare reati, evidentemente se l'è cercata, quindi non piangi per la morte, sei contento che è morto? No, io non sono contento mai se uno muore. Certamente, se devo fare un ragionamento, se è meglio che sia morto lui o meglio se moriva il pensionato, qualche suo parente, eccetera, ovviamente dico l'albanese. Tra l'altro, sembra di fare un discorso quando questo magari l'hanno trovato dall'altra parte della strada, quello era all'interno di una proprietà privata e non è che era, stanno indagando. Però io ti voglio chiedere, il governo, credo un sottosegretario o qualcuno, ma diversi esponenti della maggioranza in Italia, il vice ministro, chiedono le tue dimissioni, giusto. Le tue dimissioni da parlamentare europeo. Parenzo dice giusto. Beh, ci mancherebbe altro. Ministro, non so. Bubbico, un tale sia Bubbico. Ma non è che un parlamentare lo vedi mai in televisione con una pistola, ma neanche negli Stati Uniti succede. Sugli Stati Uniti mi hanno citato la più grande lobby. Lo hanno fatto come caso umano, evidentemente. Posso dire, adesso piantala lì, Parenzo, che un po' va bene, poi dopo esagi. Adesso piantala. Anche lì ti considerano un caso umano, perché anche negli Stati Uniti non lo fanno, infatti. No, ti cosa è successo? Diventi notizia negli Stati Uniti perché sei un caso umano. Fammi sentire perché. Che è successo? Uno statista per il piano Marshall. Una grande lobby delle armi mi ha citato come uno che come sindaco. Vedi? Dovrebbero farlo tutti i sindaci negli Stati Uniti, cioè, come esempio, l'acquisto come esempio, come delle esempio. Pistole. C'è la lobby americana delle armi, esalta Buonanno con, per la sua proposta di 250 fuori, euro. C'è una cosa. Dopodiché a me non interessa questa cosa, mi interessa chiarire, ripeto per l'ennesima volta, io ho fatto una iniziativa, volevo dimostrare come era l'iniziativa, mi dispiace, ho recato qualche danno alla Lega, tanto adesso io sto tranquillo. Che vuol dire qualche danno alla Lega? Lega fa più stronzate, però non ti penti? No, ma non mi pento, nel senso che ero talmente in buona fede che io non l'ho fatto con malizia. Ma uno deve essere consapevole di quello che fa, non pentirsi. Se ti penti, o questa cosa non lo rifarò più. Vabbè, ma quello d'accordo, non lo rifai più, ti credo. Non è che uno va in televisione 20 volte con 20 pistole. Ero talmente in buona fede, ma ero talmente in buona fede. Ma la buona fede qui non è in discussione. In discussione è il gesto, la provocazione, il gesto politico. Lo rivendichi o no? Sì, lo rivendichi, mi sembra. Pronto? Sì, sì, lo rivendico. Ah, no, mi sembra un po' titubante di fronte a te. Credo, l'hanno bastonato. Se pensavo di scatenare una cosa del genere, certamente non lo rifarò più. È come il bambino sculacciato. Come? No, ma è come il bambino sculacciato, ma non passerà liscia stavolta. E che succede? No, non passa liscia perché è talmente grave che un deputato vada in televisione, chiunque, ma in particolare perché chi ricopre il carico, vada in televisione con la ufficio, pistola. Però andrebbe chiedo di aprire, che venga immediatamente aperta un'inchiesta per capire, uno, il povero poliziotto coinvolto, vigile, al quale probabilmente è stata fatta una sorta di concussione, peraltro. Si può ipotizzare, uno, il reato di concussione, concussione del sindaco nei confronti del proprio dipendente, quindi una forma di concussione. Famiglia cristiana dice che sei un sindaco, famiglia cristiana è tutti contro Buonanno, è per quello che io sono dalla parte di Buonanno, perché tutti ipocritamente sono oggi dalla parte di Buonanno. Perché sono tutti ipocriti, nel senso che si fanno vedere troppo di tutto e di più, stavolta. E poi è una cosa, va bene, io troppo non grossa, lo troppo più, grossa, però, non lo faccio più, non è il pane con la Nutella che hai mangiato, no, scusami, non lo faccio più, non è quella guarda roba che lì. Se ti metti a pecora, Gianluca, finisce male se ti metti a pecora, no, non lo faccio in Italia se ti metti a pecora, poi non è che la, te, non è che la passi liscia. Ma secondo te, ma Putin quando va in televisione in Russia, secondo te, quando qualcuno lo richiama, dice, Davanish non lo faccio compagno, non lo faccio più. Putin, sei un coniglio, sei per giunta, altro che Putin, la Russia, il politico coi coglioni, sei pure un coniglio, dovresti perché? Rivendicare questa stupidaggine che hai fatto, pagarne le conseguenze, fatto, verrai accusato di concussione nei confronti del tuo. Ma fallo parlare, però. Vai. È finita la stagione. Ma questa è l'ultima comparsata sua. Non vedo niente di strano, è logico che a questo punto basta, non è che lo farò un'altra volta. L'hai fatta grossa, l'hai fatta. L'ho fatto in buona fede, punto. Librandi dice che vai arrestato. No, arrestato, ma va indagato. Sì, signor Librandi, va indagato sicuramente, perché vabbè, ha commesso una serie di reati importanti. Vabbè, mai a pecora però, se uno fa una cosa, poi se si pente, te lo infila in quel posto, amico mio. È sempre così, te lo dico. E questo sarebbe il politico che ha Putin come riferimento. Non devo chiedere scusa, ho fatto la mia azione. Ha messo in imbarazzo un'emittente televisiva. Ha messo pure in imbarazzo un'emittente televisiva che è stata costretta a chiudere il collegamento. Ma in imbarazzo che cosa? Guarda, ha fatto tre cose. Uno, ha messo nei guai un suo poliziotto. Prima cosa che ha fatto. Secondo, ha commesso almeno tre reati che se vuoi ti elenco. Ma che sei il giudice? Che sei il PM? Che sei? Ho detto, ti posso elencare. Ma che reati? Ha mostrato una pistola in televisione scarica senza caricatore. Dai, non diciamo cazzate. Dai, che reato? Non diciamo puttanate. Dai. Mi fai la difesa gratuita. Ma no, la difesa, non faccio la difesa gratuita contro di me. Mi fa piacere. E più mi fanno così, e più io sono che vado avanti, capito? Molti nemici, com'è? Molti nemici, diceva lui. Molti nemici, molto onore. Pazienza. Si aspettano qualcosa, intanto venissero a chiedere dopo 23 anni da sindaco perché prendo ancora una stragrande maggioranza di voti, perché mi vota la gente, perché forse faccio delle cose utili, non perché gioco. Fermi tutti, pubblicità, ciao Gianluca. Guarda che c'è gente strana in giro, Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Yeah. ragazzi, io dico solo una cosa: vogliamo uscire da questo discorso sulle armi, fra poco ci torneremo, ma ci usciamo in questo modo, caro Parenzo. Il 2015, ci informa Dagospia, potrebbe essere l'anno del pelo. In che senso? Cioè l'anno dedicato alle donne che rifiutano la dittatura del rasoio. È uscito anche, tra l'altro, uno splendido libro in America in cui si sostiene che radersi nelle parti intime è innaturale, uno spreco di risorse e tempo che potrebbero essere impiegati meglio. Io a questo punto, in onore di questo 2015, che è l'anno del pelo, farei ascoltare Vittorione Sgarbi, perché Vittorione Sgarbi ha dato la linea, diciamo, rappresenta una sorta di pilastro fondamentale per questa trasmissione. So che non è la cosa, non ti piace particolarmente l'argomento, non ti appassiona, ti appassiona più quello 38, delle armi. Le 19:38, che c'entra? 19:38 è come le 20:38, non è che c'è gente diversa. Stiamo parlando di una cosa molto semplice che interessa a tutte le donne: radersi o non radersi, togliersi il pelo oppure no. È fondamentale, sono problemi veri, non quelli di chi spara, non la riforma del Senato, eccetera eccetera, la rasatura. Il professor Sgarbi infatti si allena su questo argomento. Qual è il dramma del nostro tempo? Che gran parte delle donne negli ultimi 20 anni si depilano. È vero. Come se quella parte del corpo dovesse essere liscia, quando invece, se Dio l'ha fatta pelosa, ci sarà una ragione. Ecco, allora io sono per la persistenza del pelo. Sì. Invece trovi molte donne che non ce l'hanno più. Beh, questa è la strada, questa è la via maestra da percorrere. Scusa, ma non ho capito, perché tu sei così appassionato del pelo lungo, diciamo, no? Del pelo. Ma cioè del... non so dirti perché, però mi sembra che se la figlia è nata così ci sarà una ragione. Cioè ci sarà una ragione, perché prima... liscia è un po' oscena, liscia. Cioè, liscia come oscena, uno, sì. Come sì. Uno pelato, no? Sì. Uno che ha i capelli sono giù perché è pelato, e, insomma, è interessante che uno sia pelato, ma non è la condizione ideale. Ora, queste che hanno il pelo, perché se lo tolgono? Oh... Altro argomento fondamentale: io divento pazzo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, io vorrei capire chi è che dà i soldi. Devo fare una ricerca, mi devo mettere in testa che ogni tanto devo fare delle ricerche, caro Parenzo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mi fa diventare pazzo. Potrebbero dichiarare, dicono dei giornali inglesi, potrebbero dichiarare pancette e salsicce come alcol e sigarette, cioè cancerogene. No, ma stai attento. Beh, sì, cioè, potrebbero dichiarare il prossimo 26 ottobre che gran parte delle carni rosse possono provocare il cancro. Tu pensa a quello che potrebbe accadere. Tu immagina quello che potrebbe accadere. Senza controllo sanitario. Il professor Librandi ieri qui alla Zanzara dice che Salvini e altri leghisti vanno arrestati per istigazione a delinquere. Io credo, no, che bisogna evitare di fare la cultura delle armi, perché ho sentito Marcato e Salvini che dovrebbero essere arrestati immediatamente per istigazione al reato e a delinquere. Poi Sicignano viene definito un irresponsabile, cioè il pensionato che ha sparato al ladro. Lo definisco un irresponsabile, perché un irresponsabile, secondo... sì, un irresponsabile, perché lui deve proteggere la sua famiglia e doveva beh, l'ha protetta, ha ammazzato uno e voleva rubare. Beh, scusa, la sua casa non è protetta, io c'ho qui la foto davanti, la casa del vicino è protetta. E poi dice questa frase, non me l'ero accorto bene in diretta, poi me l'hanno fatta notare: bisogna dare una chance al ladro prima di sparare. Cioè, questa è veramente curiosa, cioè devi dare una chance al ladro, dice proprio così, Sai cosa fai? Perché devi dare una chance all'altro, devi fare alto là, chi va là lasciamolo perdere, perché sennò facciamo ridere i polli. Allora facciamo fermo o sparo. Cioè, devi dare una chance dicendo fermo o spara, ma ragazzi. Questa idea che uno debba fare un codice. Dai, un su, codice, dai, una legge, dai, per dai. Cui dice, beh, questo è un po'. Direi di andare a Milano da Domenico, 800 24 00 24. Vi annuncio alle 20:15. Alle 20:15, beh, ci sarà un grande ospite, grande ritorno alla Zanzara. Beh, non ti preoccupare, perché ci sarà un viaggio che intraprenderò questa sera, Parenzo. Un grande viaggio. Un viaggio alla scoperta di un mondo che molti italiani conoscono, perché vogliamo portare in Italia un esempio, soprattutto per la candidatura della lista Zanzara alle prossime elezioni comunali. E beh, amico mio, andremo in Svizzera a conoscere il regno della prostituzione. io personalmente mi recherò nei cantoni del nord della Svizzera per conoscere il mondo della prostituzione. Vabbè, vai a puttane sostanzialmente. Cioè, adesso, hai detta come fosse l'inchiesta di Report. Vai, hai deciso di passare un weekend a puttane e la stai passando con i soldi dell'azienda. Fai benissimo. No, nel senso che fai benissimo a farti rimborsare il viaggio. Ma non è vero, non me lo faccio rimborsare. Questa per una grande inchiesta. Il povero Platerotti tutti i giorni deve trovare delle cose da inventarsi dall'America e tu invece non è più in America qui. Non lo so dove si trova o dove si trova e tu invece ti inventi la grande ma non è vero, nessuno mi rimborsa nulla, nessuno mi rimborsa nulla, vai nel Canton Ticino, passi a troie, una giornata dice, con delle prostitute, gli porti la nota spese e poi ci grande inchiesta della zanzara. Non porto nessuna nota spesa. Napoletano la vedrà e dirà però interessante, però non so se la pubblichiamo. Com'è che sul dirà? Domenicale direttore, come dirà, direttore come dirà, guarderà la nota spese, come dirà no, intanto guarderà un attimo, così come farà, la guarderà poi chiamerà la segretaria, ovviamente sì, come farà, dimmi come farà. fate presto non lo so, ma no, presto niente. non pagate niente diciamo, fate presto torna presto dalla Svizzera, torna presto. Ma questo è matto, dirà. Domenico da Milano, dai. Pronto, dimmi. Buonasera, salute Cruciani, un saluto particolare a Parenzo, dai. Ti apprezzo moltissimo. No, io ti volevo dire, prima in macchina ho sentito l'intervento di Bonanno, sì, di cui ho una considerazione peggio che di Parenzo, diciamo. E volevo dirti che ti ha dato in diretta... Cioè, peggio di Parenzo, in che senso? Che cosa faresti a Bonanno? Ancora peggio. Ce lo impiccheresti? Che faresti? No, male a nessuno. Però lo ritengo una persona abominevole. Abominevole? Ma guarda, l'ho che Parenzo detto, più o meno la pensa così, eh? Non è che non la pensa in maniera diversa. Ma perché voi siete gente così, gente della alta società, gente che frequenta... No, che non frequenta alto, così, diciamo... Pazzo. Vabbè, comunque, allora... No, ma volevo Gasparri dirti che ti ha dato in diretta una notizia di reato bella bella, nel senso che lui ti ha dichiarato che non ha il porto d'armi, esatto, però oggi deteneva e portava un'arma. Esatto. Vabbè, di questo però francamente se ne occupano... Un pezzo di arma. Sì, no, di questo se ne occupano però altri, cioè se ne occupano sì, i magistrati, eccetera. Se ne interesseranno, visto che l'ha dichiarato. Speriamo. Però volevo solo evidenziarlo. Ecco. Cioè che oggi, tu dici, pochi minuti fa, in diretta radiofonica... Pochi minuti, sì. Ha praticamente confessato, tu dici, no? Sì, cioè, ha confessato un reato. Deve aver commesso un reato. Vabbè, è buono. Vabbè, Luca Padova, vai. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Ma secondo me stiamo un po' girando intorno alla cosa grave. La cosa grave è quella di proporre dei soldi per comprare un'arma. Sì. E soprattutto se la notizia è confermata del sindaco di Padova che dice che paga le cause legali a chi si difende in casa propria. Sì, non ha ancora detto dove trova i quattrini, dice che in parte ce li mette lui. Qualcuno dice che è una buffonata inenarrabile perché il comune non può pagare nulla. Però cioè, vedremo. Beh, dai. Se mai quei soldi dovessero esserci, secondo me sarebbe più giusto mettere a disposizione, magari per mettere delle telecamere, per dare le forze dell'ordine. Devo dire che su questa cosa, però, io sono d'accordo con Parenzo. L'idea che un sindaco, mentre una regione in teoria può mettere dei fondi per la sicurezza, l'idea che un sindaco può promuovere certamente un fondo da parte di imprenditori privati, però l'idea che un sindaco utilizzi i soldi di tutti per la difesa di alcune persone che hanno avuto dei problemi con la giustizia perché hanno rubato in casa, secondo me non si può fare. A mio parere non si può fare. Va bene, non è giusto, ma se veramente ci fossero quei soldi anche privati, ma che li diano le forze dell'ordine, no? No, ma i soldi privati l'idea. Ognuno fa quello che vuole, ognuno fa un fondo, il sindaco ma l'idea di come fanno i nostri politici, perché purtroppo la nostra classe politica è cintura nera di esibizionismo, questo è il problema. Siamo tutti un po' esibizionisti però, Marco da Verona, vai Marco, dimmi. Marco. Tu Patrizio, provincia di Milano, vai Patrizio. Sì, ciao. Ascolta, ciao. Dimmi. A tutti. Allora, io volevo dire una cosa. Un ladro, quando entra in una gioielleria, ci entra armato. Sì. Perché? Perché contempla il fatto che il gioielliere possa essere armato, gli possa sparare, così come entra anche in banca. Invece negli appartamenti no, non ci vanno così. Perché? Perché non adesso piano piano cominciano a contemplare che possono morire e ci possa essere qualcuno armato che li possa uccidere anche in un appartamento, anche a casa mia. Dunque? Capisco. E dunque è giusto che in ogni caso, comunque vada questa vicenda, l'ipotesi che nelle case la gente possa essere armata, no? Può funzionare come deterrente. Non ho capito, cioè le armi, più armi in casa possono funzionare come deterrente, giusto? Sì, sì, perché... Guarda, io sono del parere che è giusto armarsi se uno vuole farlo, che le persone non devono essere punite se sparano dentro casa, se sparano dentro casa o nelle immediate vicinanze. Detto questo, non credo che i ladri si fermino se sanno che dentro ci sono le armi. Certo, se sanno che dentro c'è uno armato col bazooka che dorme, che non dorme la notte, sta lì ad aspettare col bazooka, probabilmente non entrano. Su questo non c'è dubbio, ma non credo che si fermino, perché non è che fanno le statistiche i ladri. Cioè i ladri, quando bisogna andare a rubare, più o meno fanno delle ricerchine e poi lavorano. Però non lo so, magari se tutti si armano, bisognerebbe vedere le statistiche, per esempio in America, nei posti dove la gente si può armare, se sono diminuite le rapine, se ce ne sono, se non ce ne sono. Fermi tutti. Caro Parenzo, abbiamo con noi Federica, sì, Raccagni, vedova di Pietro Raccagni, un signore, sì, ucciso vicino Bergamo, a Pontoglio, da un gruppo, da una banda di delinquenti, cioè da una banda di delinquenti e di assassini poco più di un anno fa, l'anno scorso. Federica, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. No, e intanto voglio sapere una cosa, il processo nei confronti, li hanno presi questi qua che hanno rapinato da, sì, voi, hanno ucciso? Sì, li hanno arrestati tutti e quattro, l'ultimo è stato preso in Croazia qualche settimana fa. Meno male, va? E stanno, gli altri stanno subendo un processo per che cosa? Per omicidio preterintenzionale, quindi avranno diritto al rito abbreviato con tanto di sconto di pena. E la cosa ti fa incazzare? Sì, perché secondo me non è omicidio preterintenzionale. Io non sono in giudice, non sono un tecnico, comunque la dinamica l'ho vissuta, l'ho vista. Hanno ucciso senza scrupoli, nel senso che mio marito era già a terra, noi urlavamo come dei matti e loro erano lì ancora e volevano prendere la macchina e hanno preso la macchina. Mio marito è stato colpito a tradimento in un attimo. Ma come l'hanno colpito? In un secondo, con una bottiglia di vino che ci avevano rubato in casa. Erano stati in casa, ci avevano chiuso nelle camere e noi non ci siamo accorti. Sono scesi nella taverna, hanno preso del vino, sì, sono usciti, hanno preso le chiavi che c'erano in taverna, hanno aperto l'autorimessa. Quando noi ci siamo accorti che avevamo i ladri in casa, stavano spingendo fuori la macchina di mio figlio a mano. Ma per voi era la prima rapina? Per cioè... noi sì, avevamo subito dei furtarelli, ma sì, non così, mai quando noi eravamo in casa. Ma questa che banda era? Era una banda di albanesi, sì, che vivevano qui, clandestini, tutti e quattro, giovani, avevano già dei reati alle spalle, avevano già anche ucciso in Austria sempre per una rapina. Tu sei però arrabbiata perché alla fine, secondo te, al massimo avranno quanto questi qua? Per aver ammazzato tuo marito con gli sconti di pena, quanto avranno? Non voglio sbilanciarmi più di tanto, comunque secondo me non avranno molto. 10 anni, 15 anni, preterintenzionale, gli anni sono quelli lì, dai 12 ai 15 anni. Senti una cosa, ma... Venuti in casa mia, l'hanno rubato, l'hanno rapinato, ci hanno visto, invece di scappare l'hanno ucciso. Non ho capito, Federica, scusami, ma tu lo capisci invece il pensionato di Vaprio Dadda che ha sparato al tizio là, Ma lo capisco al ladro? Perché, lo capisco perché quando tu ti svegli di soprassalto, se lui ha avuto la nostra reazione, tu non puoi capire quell'attimo lì cosa provi. Tutte queste persone dovrebbero provarle certe cose, dovrebbero provare a avere quattro ladri in casa come li abbiamo avuti noi o come magari li ha avuti lui, che ha avuto paura e ha sparato. Io sono sempre stata contro le armi, non vorrei arrivare a tenermi un'arma in casa per difendermi, anche se siamo tutti su questa strada. E se tuo marito fosse stato armato? Se fosse stato armato, io me lo ripeto mille volte questa cosa, forse se avevamo un'arma, non lo so, avremmo magari sparato in aria, oppure avrebbe anche ucciso, però piuttosto che vederlo al cimitero avrei preferito che uccidesse il ladro. Sinceramente, perché più di così io non so che parole potrei dire. Senti, si fanno discussioni sul fatto ha sparato sulla terrazza, ha sparato fuori da casa, ha sparato nel giardino, non era ancora entrato in casa. Secondo me sono tutte storie, in qualsiasi punto lui abbia sparato gioca il fatto emotivo, la paura che ti fa sparare. Nessuno spara volentieri, ma chi sarà contento a sparare, a uccidere un uomo, a uccidere un ladro? Nessuno, Tu lo uccidi perché hai paura, perché quel momento lì la tua mente reattiva, non ragioni. Io volevo affrontare i ladri. io, che sono una donna, volevo, mi sono messa lì davanti a urlare, a dire smettetela, scappate, aiuto. E se avevo magari un'arma, chi lo sa come avrei reagito. E quello che vedi però in televisione ti piace? Cioè i politici che parlano delle armi da una parte e dall'altra, io... ti piacciono o no? Ma guarda, io vorrei che lo Stato non mettesse in condizioni le persone di comprarsi un'arma. Vorrei che fossimo più tutelati e più sicuri. Vorrei che lo Stato investisse più nella sicurezza. Ma lì in provincia di Bergamo vi sentite sicuri, no? Mamma mia, no, no, no, no, siamo bersagliati noi qui, no, no, no, no, no, assolutamente, siamo bersagliati. Però capisco anche chi si arma, io capisco chi si arma. Che poi con tutto quello che succede a una persona quando spara, dico meglio affrontare un cattivo processo che un bel funerale. Senti, ma dello Stato ti fidi, della giustizia? È morto, Dello Stato e della giustizia ti fidi? Poco. Poco, poco, poco, poco. Cioè, io non mi sono sentita tutelata. Mi stanno tutelando più adesso perché io sono... Perché fai un po' di casino, dai, sì. Faccio un po' di casino, sono stata a Roma. E vai in televisione, eccetera. In questo momento c'ho dei politici che mi stanno aiutando, sia di destra che di sinistra. Io non mi sto schierando da nessuna parte. Comunque, anche la gente, secondo me, dovremmo farci sentire di più. Lo Stato ci dovrebbe essere... Invece non c'è, e se c'è, se ci sarà, è perché io mi sono fatta sentire, altrimenti una famiglia viene abbandonata. Gli assassini di mio marito hanno tutti diritto all'avvocato d'ufficio, tutti con l'avvocato pagato prendono 9 euro al giorno. Noi, la famiglia, non c'è nessuno che dice vediamo un po' questa famiglia come è messa. Vabbè, questi qua devono essere... Potrei anche avere 2 figli piccoli e la mia Claire rimaneva abbassata, ha capito? Io ero... Quanti figli hai? 2, uno di 20, una ragazza di 23 e uno di 26. La stessa età di chi, degli assassini? Sono a questi assassini che hanno ucciso mio marito hanno l'età dei miei figli. Puoi immaginare quando metti via alla sbarra, dico ma siete ragazzi, ma cosa avete fatto? Sono dei ragazzi. Però speri che stiano in galera tutta la vita, diciamo la verità. Beh, qualcuno deve pagare. Io spero certo. Che siano in galera e che siano rieducati, perché questi, se vengono lasciati liberi che stanno ancora in Italia, continuano a delinquere. Io ho questa opinione. Va bene, Federica, ciao, grazie. Vorrei che lo Stato ci fosse, comunque, che lo Stato capisse la situazione. Vorrei questo, ha capito? Va bene, grazie Federica, ciao. Ciao, sì, grazie. Ciao. Oh, intanto Parenzo... La cosa incredibile di questa storia, sì, che stavo appunto mentre parlava ci stavo pensando, è che effettivamente poi queste vittime però vengono lasciate sole. Cioè adesso lei ha la deve guidare l'impresa del marito, mi pare, che sì, ovviamente, vabbè, no? Però voglio dire, che deve fare? Cioè lo Stato in qualche caso, cioè la tutela, la famosa tutela dello Stato, oltre ad aver condannato al massimo della ci pena, dovrebbe pure aiutare queste persone qua economicamente. Beh, il vero fondo che le regioni dovrebbero non fare, non è per gli avvocati, cioè... non è, esatto, non è per gli avvocati, ma è per aiutare in questo caso sì le vittime, cioè queste persone qui che magari... Vabbè, però ha parlato la fidanzata di quello di quello ammazzato dal pensionato, la signora fidanzata Florentina, non mi ricordo come, Florentina è la fidanzata del rapinatore di Vaprio, che dice che è un bravo ragazzo e che non aveva armi, e io rispondo chi se ne frega. È ovvio. La legge dice si spara così e così, direttamente in cuore, come l'ha fatto lui. L'ha fatto intenzionato, la mia parere. È un bravo ragazzo. Aveva armi, Non aveva niente. Mai, non ha avuto armi. La zanzara. Allora ragazzi, la più cattiva su Buonanno che ho letto sul web è questa. Beh sì, si è presentato con la pistola in televisione, poteva tranquillamente puntarsela alla tempia e farla finita. Andiamo a Milano, Umberto, vai, 800240024, Umberto. Pronto, ciao sì. A tutti. Ciao, dimmi. No, volevo affrancare le affermazioni del professor Sgarbi, ha ragione, sì. Se la natura ha previsto, io mi occupo, non che mi occupi di questo, sono farmacologo. Farmacologo, cioè sei un professore universitario, che sei? Sì, io insegno all'università, sono cosmetologo a dire la verità, cioè mi occupo più di che cosmetici. Che cazzo è cosmetologo? Cosmetologo è chi si occupa dei cosmetici che ne usi 10 al giorno. No, tu, mamma mia, ormai si insegna di tutto all'università, anche cosmetologia. Certo, i cosmetici li usano tutti, pensa, spuma da barba. Ma dove insegni, scusa, professore, dove insegni? Io insegno all'Università di Pavia. A dermatologia all'università? La cattedra di medicina estetica Tor Vergata. Sono un professore a contratto, non professore ordinario. A contratto, vabbè, comunque a professore contratto. Sempre. Professore universitario, che ci vuoi dire professore universitario sul pelo di figa? Esatto, Sgarbi ha ragione a sostenere che se Dio l'ha voluta, quel ciuffo ha un significato biologico importante dal punto di vista antropologico ed evolutivo, perché quel ciuffetto serve a trattenere e erogare i feromoni che nella zona inguinale vengono prodotti, quindi è una sorta di afrodisia come le ascelle. Beh, siamo veramente al top. Tu stai sostenendo, da professore universitario, da studioso della materia, come dire, cultore della materia, anzi un po' più di cultore della materia. Io mi occupo più di formulare i detergenti intimi nella mia professione, però chiaramente per studiare quelli devo studiare anche l'istologia della vagina. Pensi che se nostro signore o chiunque per lui, diciamo, se uno non crede, abbia creato i peli pubici, i peli sulla figa, insomma sulla peli, o sotto le ascelle, un motivo c'è. Ed è un motivo, tu dici, di che tipo? Di tipo evolutivo. Ti faccio un esempio. Ti ricordi Lucy? Lucy, quella è la scimmietta di 180.000 anni fa, che hanno chiamato come Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy era la prima donna, tutta un po' pelosina, no? Un po' scimmietta, che poi si è evoluta, si è messa in piedi, non camminava più a quattro zampe, ha cominciato a spelarsi, è diventata liscia, mammelle, capelli lunghi, ma se tu noti sono rimasti tre ciuffetti, ascella destra, ascella sinistra, è la zona inguinale, perché lì i feromoni vengono trattenuti e divulgati come una sorta di arbre magique virtuale, in modo tale che il mammifero vicino possa trovare attrazione o repulsione. E se uno non ce l'ha quei peli, che succede? No, hai meno potere afrodisiaco, sei meno attrattivo, capito? Parenzo, siamo veramente al top della spiegazione. Secondo il professor Umberto, professore sul serio, non professore per finta, non professore per prenderlo per il culo, il professor Umberto sostiene sostanzialmente che il pelo donne ha una funzione afrodisiaca, ma è una funzione, come dire, che viene riconosciuta evolutiva, addirittura. Evolutiva. Assolutamente. Guarda, ma tu sei un amante oppure preferisci... Preferisco dirti questo, fra un mesetto uscirà un mio libro per Mondadori che si chiama La Divina Cosmesi, che parla di tutto questo mondo qui. E dagli con la marchetta. C'è un capitolo, è sempre un libro culturale, mi sono automarchettato. Ti sei automarchettato, però comunque non fa niente. Allora uscirà un libro in cui... C'è un paragrafo che si chiama Histoire d'un bidet, dove spiego tutto quanto il mondo di quel mondo intimo. Il mondo intimo, attendiamo con ansia. Davide il libro sul bidet, va bene. A Davide da Vicenza, Davide da Vicenza, vai. No, poi ha ragione. Pronto? Dimmi. Pronto? Buonasera, allora, sarò velocissimo. Allora, vorrei mettere un po' una provocazione. Nel mondo delle armi ho capito che è giusto, tra virgolette, armarsi in casa per difendersi. Però la mia provocazione è questa: in commercio esistono molteplici calibri delle pistole, comunque anche munizioni non letali. Perché non usare le non letali come prima offesa, anzi difesa, e successivamente avere la pistola caricata a proiettili letali? Questa che è Davide, non facciamo casino. Non ho capito che cos'è che proponi. Praticamente l'uso di proiettili che non uccidono. Ragazzi, ma quando uno c'ha una pistola in casa e c'è un ladro, e se uno si sente di usare quella pistola, ci mette i proiettili veri, non è che ci mette i proiettili finti. A che serve? Poi quello colpito da un proiettile finto magari si incazza e ti arriva una sventagliata addosso. Ok, però se io so che usando un proiettile vero passo, tra virgolette, dalla parte del torto, potrei anche pensare di usare un proiettile non letale come primo sparo. Ovviamente il secondo non sarà primo non letale. Ma non servono questi primo sparo, secondo sparo. Serve quello che uno in quel momento pensa di poter fare per proteggere la propria famiglia, i propri beni, la propria casa e tutto. E se uno si sente di sparare all'impazzate, spari all'impazzate, e secondo me lo Stato lo deve proteggere in questo. Cioè non è che sparare all'impazzata. Non è che bisogna fare come crede Parenzo che io faccia, incitare a sparare. Io non incito a sparare. Io dico dico semplicemente una cosa: se uno si sente in grado, ha la possibilità di farlo, magari si addestra, ovviamente al porto d'armi e la pistola, se spari all'interno della proprietà, certo, se comincia a sparare con le torrette fuori, la gente che si avvicina è diverso. Se alle 3 di notte senti dei rumori, uno che entra là, certo, non è che ti viene a portare un caffè, non è che ti viene a portare i pasticcini, che ti porta la torta, viene a rubare dentro casa tua, e per impedire stupri, rapine, furti, omicidi, eccetera eccetera, della tua famiglia, spari. È normale che, che avvenga, cioè è normale che avvenga. Quando avviene, normale, secondo me è la legittima difesa, non secondo è me, sì, ma infatti anche nel caso di Vaprio Dadda, ma sì, già ci sarà, magari va migliorata. Sto dicendo semplicemente che nel caso di Vaprio Dadda si andrà verso questa roba qua alla fine. Detto fino al primo giorno, speriamo. Andrea Milano, vai, Andrea Milano. No, Davide, non posso. Andrea Milano, vai. Ciao, dimmi ciao Andrea. Parenzo. Io, allora, dopo aver sentito la telefonata della signora, cioè, mi si chiude quasi la gola. Andando a sentire la prima parte della vostra trasmissione, quando Parenzo attacca Burano perché ha fatto vedere una pistola, stiamo girando intorno al problema. Ma l'avete sentita la signora? Cosa avrebbe fatto se avesse avuto la pistola? Ma state girando intorno cioè, al problema. In che senso? Spiegami. La gente non ne può più, la gente, vi dico questo, la gente nel veronese, nel mantovano, nel bresciano, nel vicentino, si sta armando, i vecchietti si mettono il fucile vicino al comodino e dicono se mi entrano io sparo, perché qui non se ne può più, lo Stato è assente, vi dico questo, qualche mese fa la Regione Veneto, qualche assessore di cui non voglio fare il nome, perché non gli voglio fare assolutamente pubblicità, insieme all'Arma dei Carabinieri facevano delle riunioni di zona dove con i cittadini, dove dicevano: cari cittadini, sappiate che ci sono delle bande di qua e di là che vanno a svaligiare, bene, fate il controllo del vicinato, mettetevi insieme, controllate. Qual è il messaggio? Sono cavolacci vostri. Lo Stato non può fare niente, ma questo dovete dire, questo bisogna fare, lo Stato deve, la politica deve intervenire in questo senso. Perché purtroppo è vero che lo Stato non può fare niente perché non può presidiare ogni casa, ma è vero anche che tu con lo Stato fai un contratto da cittadino, cioè io ti pago le tasse e tu in teoria mi dovresti difendere. Appunto. Se non riesci a difendermi, se non riesci a difendermi per mille motivi, perché non dai i soldi ai carabinieri, alla polizia, perché le leggi sono inadeguate, beh, a quel punto ci penso io, ma mi sembra una cosa talmente normale. Francesca da Roma, vai. Francesca. Sì, sono io. Dimmi, buonasera. Dimmi, vai, vai. Senti, scusa, io volevo dire una cosa a Parenzo, no? Sì. Che è la tua spalla, poi, in effetti. Ma è uno, ma che sta qui in trasmissione a dire la sua, spalla, non spalla. È una spalluccia tua, lasciamelo dire. Vabbè. No, io volevo dire semplicemente questo. Quando voi chiamate una persona, chiaramente questa persona vi deve rispondere. Per quale motivo, mi domando, non lasciate parlare le persone e le interrompete continuamente? Perché sono affaracci nostri, facciamo no, così perché ci piace fare così. Non sono cazzi tuoi, sono anche cazzi nostri che sentiamo la radio. E se vuoi cambi. Ecco, allora puoi dire tu al signor Parenzo che se c'ha problemi, se andasse a fare una scopata, o da che se andasse a fare, se andasse a una fare una bella scopata. Ciao. Ma che c'entra questo? Non ho capito. No, c'entra perché c'ha problemi. Ma perché? Quando chi ha interrotto? Lei dice, perché quando uno ha problemi si fa curare in un modo o ma non in ho capito, altro. Perché lei, dici che hai problemi? Lei cosa fa, signora, nella vita? Sono cazzi miei. Tu pensa a fare il tuo lavoro che io faccio il mio. Certo, io faccio cara. La mamma e la nonna. Ah, la nonnina fa. Ah, la nonna fa. La nonnina, che bel linguaggio che ha la nonnina per i suoi nipoti. Che bel linguaggio la nonna. Non sto lì a sentire le cazzate tue. Che bel linguaggio che ha la nonnina. Ma che linguaggio? La nonnina che parla di scopate c'ha anche. Che c'ha anche sotto le scatole. No, però scusa Francesca, non ho capito. Tu intervieni in questa trasmissione. E l'unica cosa che dici è che Parenzo si deve fare curare, ma per quale motivo? Non ho capito, non ho ancora capito perché. Chiuso, richiamo. Francesca, c'è o non c'è? Francesca, richiamatela, dai, richiamatela, vai, richiamatela. C'è o no? Francesca? Francesca, ci sei? Sì, sono qui. Ma sono qui. Eccola, che fai? Dimmi, nonni, dimmi, caro. Che fai? Nonni, finta di andare via? Non ho capito. La nonnina. Senti, Lorenzo, con te, guarda, io te volevo dire una cosa a te. Senta, però, nonnina. Non voglio parlare perché sei maleducato. È abbastanza reciproco. Adesso, guarda, detto da te, mi sembra esagerato. Sono una nonnina molto fica, caro. Che cosa mi vuoi dire? No, Francesca, io voglio capire una cosa. Tu sei entrata in trasmissione e hai detto che Parenzo è un imbecille, non so che hai detto. Insomma, no, io non ho detto che imbecille, deve farsi detto, curare, che deve farsi curare. Penso, a parte che lo penso, però sì, io ho detto che deve farsi curare, Lucia, ma perché? Che ha fatto? Il giudizio sia reciproco. Lucia, perché è un grande maleducato. Vabbè, ma che ha fatto? Non ho capito concretamente che ha fatto. Interrompe continuamente. Ma è normale, ma quello faccio anch'io di peggio, ma qual è il problema? No, guarda, tu non è che lo fai di peggio, te lo sai fare. Vabbè, ma lascia perdere, dai, Francesca, su. Lui non lo sa fare. Va bene, va bene, ma questo è un grandissimo cafone. Sì, ma ho capito, ma qual no, è? No, perché gli abbiamo interrotto il suo amichetto Buonanno. No, capito? A me, ma guarda, che io non ho amichetti. L'amichetta a Ganza, la nonna che ha la Ganza. La nonna, senti, la nonnina? La nonnina, che bella educazione. Ma che c'entra la scopata? Scusa, non ho capito. La nonnina. Sto parlando, sto esattamente usando i termini che usate voi. Sì. Per cui non ti meravigliare che mi chiami nonnina, infatti, caro. No, non sono meravigliato, sono estasiato dalla nonnina che usa questo linguaggio davanti certo, ai nipoti. Certo, devi essere estasiato. Sono estasiato, infatti. Ma che c'entra adesso? Faccio della nonnina. Guarda, hai capito? No, adesso non sei nonna, quanti anni hai? Non ho più nonnine. Deve ancora nascere chi mi deve prendere. Non ho più, nonne io. Purtroppo non ci sono più nonni. Mi dispiace per te, mi dispiace. Ma non ho capito, ma quanti anni hai, Francesca? Non ho capito. Io ho 70 anni. Ha 70 anni. Ma che t'ha fatto Parenzo? E gli piacerà la pillolina blu, gli piacerà. Certo. Che c'entra la pillolina blu? No, avrà il marito, immagino, perché c'entra. No, io purtroppo il marito non ce l'ho. Mi dispiace. Molti amanti. Ma che c'entra la pillolina blu, Francesca? Beh, immagino che i suoi amichetti. Ah, sì, no, immagino che i suoi amichetti. Senti, tesoro, bello. Quando la nonnina gli fa il consomè, gli fa la minestrina. Non ho bisogno di prendere la pillolina blu. Gli fa la minestrina. Forse la devi prendere te, lo sai? Se te lo mettono da qualche altra parte. Perché lei è così attraente ancora. Pensa ancora di essere così attraente. Io credo di aver parlato anche troppo. Si è svergognata già abbastanza. Pensi domani quando va all'asilo a prendere i suoi nipoti. Come la prenderanno per il culo? Svergognato perché pensi, se hai figli. Pensi i suoi nipotini quanto la piglieranno per il culo quando va a prenderli all'asilo domani mattina? Pensi i suoi figli. Che non sei altro. Pensi adesso ai nipotini. Col telefono perché con gli ignoranti io non ci voglio parlare. Pensa ai nipotini capone. Domani che diranno: mamma, che figura di merda ha fatto la nonna. Mortacci, che figura di merda la nonna. Fermo. Miei, tu pensa a fare il tuo lavoro che io faccio il mio. La Zanzara. Parenzo, qualche secondo fa il presidente Berlusconi, presidente di Forza Italia, però presidente perché sto presidente del Consiglio, sempre presidente, che peraltro in questi giorni ha negato di aver detto alla Merkel culona inchiavabile, pare che si sia chiarito su questo punto con la signora Merkel. Ecco, no, ma scusa, prima sì. Che tu continui, ma io mi sono chiesto quando ho letto questa notizia, come si fa a chiarire un episodio così imbarazzante? Perché lui ha detto che non ha mai, non si è no, mai... No, ma con quali parole, cioè è incredibile, uno si siede vicino e dice guarda Frau... Ci sarà un traduttore. Ma tu ti immagini la faccia, cioè, come gliela spieghi? Dici, beh, guarda, caro io cancelliere, io la frase non l'ho mai pronunciata. Evidentemente anzi, non... la reputo anche una bella donna. Beh, no, quello magari non l'ha aggiunto. No. Semplicemente ma detto. Tu ti rendi conto, però, dell'imbarazzo, cioè di, co- vabbè, di che capito, cosa però, però non è mai parlando. Stata tirata fuori questa intercettazione. Fu il fatto a divulgarla, ma poi concretamente non è mai venuta fuori. Eppure ha segnato, se possiamo dire, le relazioni tra Italia e Germania per un certo periodo, se vogliamo. Forse hanno determinato anche la sua caduta. Vabbè, ma non noi non ce ne frega un cazzo. Guarda, nulla, queste nulla, cose. Nulla. Ma ripeto, il presidente Berlusconi ha chiamato una persona. Perché voleva rassicurarsi, si chiedeva perché non mi sei venuto a trovare a Milano. Pronto? Senatore Razzi, buonasera, qua Arcore, le passo il presidente Berlusconi. Sì, grazie. Per favore. Antonio, sì, carissimo. Mi hanno detto che sei a Milano e non mi passi a trovare. Sono, sì, dove sei? Un uccellino, io sono ad Arco, io sono tornato. Sono tornato da Madrid, ma dovevi esserci anche tu. Me l'hanno detto all'ultimo momento, perché oggi ho incontrato il ministro degli esteri di la Mongolia, per quello non ho, me l'hanno detto, ormai non potevo rimandare più la visita col ministro della Mongolia. Ma sì, stavo scherzando, volevo solo assicurarmi che tutto va bene, tu lo sai che Francesca è pazza di te, questo lo sapevi, no? Sì, io lo so, reciprocamente io vi stimo, vi adoro a tutte e due come non mai. C'eri quasi cascato, c'eri reciprocamente vi stimo e vi adoro come non mai, caro Antonio. Alla fine siamo riusciti a fregarti su una cosa, eh? Sì, ma dopo subito mi sono accorto della... Dopo te ne sei accorto, e quando te fregano, ma è possibile che c'hai sempre la voce che te manca? Che succede? Cioè, sei continuamente malaticcio, ma che c'hai? No, è questa stagione qua che è terribile, perché c'è caldo, freddo, freddo. Ma ho capito, caldo. Ragazzi, buonasera Antonio Razzi, eccolo buonasera, qua. Buonasera a tutti, allora, gli ascoltatori di Radio 24, La Zanzara. Allora, Parenzo, cosa fa a Milano? No, devo farti un annuncio. Stiamo per partire, io e Antonio Razzi, per una grande missione. La grande missione è missione, diciamo, esplorativa, la chiamerei. Missione quasi, non dico diplomatica, perché no, non è diplomatica, ma è una missione per conoscere meglio da vicino la realtà della prostituzione in Svizzera. Dunque, andate praticamente entrambi a puttane con i soldi del Sole 24 ore. No. Manca solo Parenzo. Specifichiamo una cosa. Non ha bisogno di pagare, per fortuna, però rispetta chi deve pagare. No, specifichi, no, non rispetti perché li chiami miserabili quelli che vanno a Troia, dunque non li rispetti. Bisogna dire un'altra cosa. Andiamo a capire il mondo della prostituzione in alcuni bordelli già prefissati, bordelli in realtà non in senso negativo, in alcune strutture che si chiamano FKK, sia a Lucerna che a Zurigo. Poi andremo anche in una scuola a Zurigo, dov'è che andiamo a fare lezione? Vabbè, in genere, quando uno va a guarda, la differenza. La missione, adesso correggo io. Che devi correggere? Non è una missione. Luciani. Siete due simpatici che vanno a Troia, cioè, però le cose non spacciatela come un'inchiesta, è una missione parlamentare, perché del nulla di tutto alla questo. Alla Casa d'Italia a Zurigo, al liceo linguistico Vermigli di Zurigo, siamo lì, facciamo un incontro con i ragazzi della scuola. Capito? E con gli italiani che vivono lì. Razzi, spera come si parla in italiano, sostanzialmente. Che almeno imparano da me, ecco. Capito? Cioè, la lezione di italiano di Antonio, che sarebbe una cosa meravigliosa. Lezione di italiano di Antonio Razzi agli studenti del liceo Vermigli. Cioè, non di Vittorio Sermonti. Tu sai, è una cosa nuova. Ho fatto un'enciclopedia della letteratura italiana tipo Razzi. Come si parla? Ma voglio vedere se tu sei capace a parlare la mia lingua. E capito? C'è una lingua tutta particolare. Cioè, la lingua... Davide, ognuno fa i fatti suoi. Scusi, no, per carità. Ognuno fa i fatti suoi. Però ma non è un'iniziativa del governo, mi pare. No, questa non è un'iniziativa del governo. Questa è un'iniziativa di Razzi Cruciani che andiamo lì a incontrare questi ragazzi. No, in realtà Perché lei evidentemente va a fare questa cosa anche divertente. Cruciani, appena ha sentito la parola Svizzera, ha detto: come fa ad andare a prostitute senza tirar fuori il deca o i 300 euro che mi costa? Faccio la grande inchiesta della Zanzara. Allora, anziché lo annuncia, si fa fare il rimborsino da Roberto Napoletano. Mentre tutti gli altri sono in giro a parlare di quantitative easing, questi altri poveretti a inseguire i convini della Confindustria. Siccome, caro Parenzo, siccome la Svizzera è qui al lato, e seguono insomma, qua vicine, è qua vicine. Ma quando andate? Questo weekend? Sì, certo. Stiamo per partire. Macchina del Sole 24 ore? No. Con la macchina con la macchina di Barisoni andate. Fate presto. Vi fate pure rimborsare la benzina della Confindustria. Mi sembra importante andare a trovare anche gli italiani che vivono in Svizzera. Andiamo, anche nei bordelli ci sono. È pieno di italiani che lavorano nei bordelli, che trovano lavoro, diciamolo. I bordelli sono una grande opportunità di lavoro anche per gli italiani e anche per gli emigranti in Svizzera, cioè danno opportunità di lavoro nuove sia alle prostitute che agli altri. Quando partite? Adesso, domani mattina o stasera? No, stasera partiamo, siamo in viaggio con le bandiere sulle macchine, certo. Ma è vero o no? Come stai scherzando? Adesso stiamo andando a Lucerna, fermi tutti, allora, traffico, fermo, c'è il traffico. Sapere di più di questo. E adesso saprai di più. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. In partenza per la missione prostitute, il senatore Antonio Razzi e Giuseppe Cruciani, fra poco direzione Svizzera. Il viaggio dei miserabili. Ma dai, non smettila. Lui pensa che i clienti delle prostitute, tu specifichiamo che tu non è che vai a puttare, ti fermerai là davanti, io entrerò. Mi hai indicato i bordelli io giusti. Io gli indicherò dov'è, ma io non andrò mai. Tu lo sai che io sono una persona serio, caro Davide. Serio, sei una persona serio. Sì. Serio. Sei una persona serio. Allora, perciò, è una delle prime caratteristiche. Allora, io però voglio farti ascoltare. Sono famoso per questo. Per la serietà, certo. Voglio farti ascoltare quello che ha detto Crozza su di te recentemente, perché non è stato carinissimo il signor Crozza. Perché secondo me Crozza, un po' in fondo, che ancora non ti ha fatto quest'anno, questo sta a morire, non ti ha ancora fatto, un po' non ti sopporta il signor Crozza, cioè non sopporta l'idea di fare di nuovo il personaggio. Senti che ha detto, senti. Col voto sul Senato siamo a un passo dalla fine del bicameralismo perfetto. E tu pensa, se con quello perfetto c'erano senatori come Razzi, Gasparri e Scilipoti, pensa con quello imperfetto. Eleggiamo direttamente la famiglia Adams. Beh, l'ha presa per il culo. Dai. Ma sì, cioè, l'ha presa per il culo, ma un po' non ti sopporta, vero? Ma forse sarà un po' invidioso che mi ha, cioè, ha sbagliato forse a farmi conoscere dalla gente. Ma cioè, lo so. Ah, invidioso per il fatto che ti ha fatto. Molte volte. Ti ha reso, sai, famoso. Non è che. Però alla fine. Cioè, sei famoso più di Crozza. Tu sei più famoso di Crozza. Alla fine lui è quello che ha indovinato di più. E fare a me. E lo fa proprio perfetto. Lo fa. Solo che però molte volte, appunto, mi fa fare la figura da scemo. Ma purtroppo deve far ridere, non è che può far piangere. No, d'accordo, però tu sei diventato più famoso di lui. In questo caso sì. E lui sì, un po' gli erode, dici, no? Sia dal nord che dal sud Italia mi conoscono tutti. Magari no, però qualcuno, mi interessa questa roba, qualcuno mi interessa si fa la risatella perché pensa. Parenzo si è fissato con le prostitute. Allora voglio capire questo. Quindi adesso questa allegra brigata formata da voi due, sì. Beh, manchi tu, peccato. Maiali, manchi tu. Vecchi maiali, partite per andare a Lucerna. Andiamo, allora, Lucerna a Zurigo. Lui guida, immagino c'è lui guida, tu hai la tua valigetta con le due o tre cose, neanche il cambio delle mutande, vedo tu usi le tue, te le rigiri due o tre volte. No, una settimana le uso di solito. Le stesse, no, lo sappiamo perfettamente. Anche Razzi lo fa, sai? Anche Razzi usa. Quante volte cambi le mutande? Ma poco. Io, davvero, è vero, me l'ha detto una volta. Io quasi tutti i giorni, se non faccio. Cioè, ogni tanto lo lasci la striscia. No, mutande. Quando lui fa la doccia, lui fa la doccia, la cambia ogni due giorni, mi ha detto una volta. Sì, perché faccio due volte la doccia, allora è pulita, è inutile che la cambio. Devo far solo lavorare di più mia moglie per lavare perché è pulito. Questo è chiaro già, che se uno non si lava se deve cambiare tutti i giorni. Vabbe, questo vabbè, d'accordo. Cioè, se invece ti lavi, puoi tenere una mutanda anche due giorni. Siete due sporcaccioli. Perché ma tu ogni giorno cambi le mutande, parezzo, ogni giorno. E che ma cosa no, fai? Nonostante faccia la doccia ogni giorno. Le mutande si possono tenere anche per due giorni di seguito. Anche ragazzi, tre. Io qualche volta mi dimentico. Ragazzi, prendo quello che trovo là intorno. E metto le mutande e prendo per tre giorni. Se siete gente sporca fuori e dentro. Sì, ogni tanto con quell'odorino. Quell'odorino, sai, quell'odorino. Ma tu, Giuseppe, sai perché forse lui lo cambia tutti i giorni? Perché può darsi che va tutti i giorni con donne, allora magari deve cambiare. Bisogno di cambiare. Io faccio la doccia, adesso ho capito. Però mi interessa di più il vostro viaggio della speranza verso la prostituzione. Il senatore e il giornalista radiofonico del Parenzo, Sole. Parenzo, scusa. Cioè, mi sembra aspetta, che tu, no, fammi capire. No, tu, mi sembra che tu zit, ti fili cazza tua. La voglia a te. Senti, ma tu la preferisci col pelo o senza pelo? Tanto per ricordare Sgarbi. Parenzo? No, lo sai che cosa dico. Pelo o senza pelo? Domanda secca, così. Ma io sempre fatto uguale, col pelo. Sempre meglio il pelo, diciamo. C'è una tutta liscia, non ti piace? Ma io non ho mai provato, non sono mai stato. Non hai mai trovato una depilata? No, io almeno a quell'età lì, diciamo 50 anni fa, non si usava. C'era il Madera, che c'era la cosa? Non si usava, c'era tutte le foreste nere. Tutta la foresta nera. Schwarzwald, tutte le foreste nere e tutte nere erano. Ma allora non pure era bionde. Adesso ho sentito che chi si c'è depilazione. Che c'è la depilazione, che c'è la figa liscia, mai provata. Io non lo so, non mai visto, mai provato. Mai provato, Parenzo, capisci? Questo è Parenzo, è uno specialista. No, ma che specialista, no, assolutamente. Lui dice che si cambia tutti i giorni mutande, vuol dire che vai tutti i giorni. Abbiamo capito che Senato Renzi non conosce una figa depilata, cioè solamente col pelo, perché all'epoca si usava così. Poi è una notizia incredibile. Poi è venuta sua moglie e vabbè, a quel punto si sono chiusi i giochi. I giochi sono fatti. Il dato è tratto. Quello che si è fatto, si è fatto, come si dice? Quello che si è fatto è finita la cosa. Via. Pubblicità. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Due settimane che non mangio sai che fagioli, non mi piace. Ritorna il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Armati di con le pistole, senza dubbi né ripensamenti, e porta le pistole in televisione. Padania bella e libera, vai Parenzo, guarda avanti. Questo sta a morire, figurati. Guarda oltre i monti, una roba incredibile. Non permettere, è praticamente un reparto di medicina sì, ambulante, sì. Siamo ambulante, cioè praticamente no. Tossisci dall'inizio alla fine della trasmissione. Aspetta, poi che chiudo il microfono. Improvvisamente uscito dalla zanzara. No, anche dipende dalla, forse c'è troppo caldo e chiuso. Ascoltatore, anche con Barin, vai. Se uno, qualsiasi persona, anche se non è ladro, entra per forza in casa mia, io sparo. Fai proprio il tiro al bersaglio. Se entra uno, tu pum pum li spari, lo fai fuori. Se entra per forza sforzando la porta o il sistema di sicurezza, io sparo e lo uccido sicuro. Padania bella e libera. Tutta la mia totale solidarietà al pensionato, logicamente, che ha fatto benissimo e ne ha eliminato almeno uno di questa gentaglia. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania. Poi c'è un tizio che si chiama Pacchiotti, sentite che dice, su gay eccetera eccetera. Nella tempesta si dice che a Siviglia, diciamo che al posto delle merendine nelle borse dei bambini ci hanno messo preservativi lubrificanti sessuali di vari colori. Olè, hai capito? Che ci ha reso schiavi. Una signora, si chiama Pacchiotti, a Siviglia al posto delle merendine ai bambini danno preservativi e lubrificanti sessuali. Ma non è vero, cioè non è vero. Adesso ci mettono tutti i preservativi per il pisellino e anche per l'ano, tutti colorati. Che gente chiama in quel posto là? Ma chi è sta Pacchiotti poi? Servi di Roma fuori. A proposito, caro Razzi, a proposito, adesso devo sentire qualche ascoltatore. Però ti voglio chiedere una cosa. Tu, sull'adozione dei gay, di cui si discute in questi giorni, come la pensi? Sull'adozione omosessuale? Cioè, secondo te due uomini possono crescere un bambino? Ma io ho sempre sostenuto, già da molto tempo, sempre detto tempo, che no. No. No, no. Ma finché che? Aspetta, Davide, calma. No, che finché ma stai nervoso, Davide? No, finché stai che? Calmo. Allora, quando magari due persone che vivono insieme, sì, e che poi trovano un ragazzo di 12-13 anni abbandonato in mezzo alla strada. Non è che lo trovano in mezzo alla strada. Beh, vabbè, cioè, magari che, tossicodipendente, sai quanti ce ne sono di queste. Cioè, figlio di tossicodipendente. E che magari loro lo riescono a portare, a salvarlo, perché no? Allora mi sembra giusto. Però C'è Elton John, ti piace la, quelli che si vanno. Però uno che deve prendere un bambino di 12, di 12 mesi o di 5 mesi o di 2 anni o 3 anni, lì non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Non sono d'accordo. Ma perché? L'idea che il bambino possa vedere due uomini in camera da letto ti piace l'idea? Sì, ma è che non si può dare un'educazione a un bambino così che giovane. Due uomini, dici. Ma una volta che è grande già lo sanno che quelli sono due, due gay o così. Sono due lesbiche, ci mancherebbe. Ormai se hanno 13, 14 anni, 15 anni lo sanno, ma da bambini no, perché dopo viene preso in giro a scuola, all'asilo. Come viene preso in giro? Sì, perché dopo magari i ragazzi domandano, fa venire tua mamma e arriva il papà, fai venire tuo papà, arriva il papà vero. Insomma, alla fine il bambino, ormai i ragazzi sono intelligenti anche a 3 anni. Ma perché non sei andato a Madrid con Berlusconi? Ma è perché oggi, questa mattina, ho dovuto incontrare il ministro degli esteri della Mongolia. Della Mongolia. Che cazzo fai il ministro degli esteri della Mongolia? Perché? Beh, è perché a primavera, aprile, ha invitato una delegazione italiana. Scusa, non c'era nessuno in tua rappresentanza a Madrid? Chi ci ha mandato? Oh, c'erano parecchi. Non c'era nessuno al Senato. No, ma hai mandato qualcuno, tuo figlio? Chi ci è andato? No, no, era mio figlio che vive lì. È andato lì in tua rappresentanza? Non lo so se è andato, capito? C'erano molti senatori e deputati lì. Sì, ma questo lo so. Vabbè, questo lo sappiamo. Morenito da Ferrara, vai. Pronto? Sì, dimmi. Sì, ciao ragazzi, buona serata. Dimmi. Volevo intervenire sul discorso di Sgarbi, che ha fatto sul pelo. Posso usare questo termine? Eh? Ha usato lui, lo posso usare anch'io. Sì, no? certo, dimmi. Io sono invece contro quello che ha detto Sgarbi. Cioè, ti piace rasata? Ma rasata, ma la grande, ragazzi. Perché? Se adesso vai in un posto, vai in un posto insieme a Razzi, ok? Dove le troverai tutte rasate. Purtroppo sì, è vero, hai ragione, purtroppo. Ma la grande, ma bella grande. Allora, ma sì, ma è noioso. No, ma il pelo lo dice uno, il mio meraviglio di Scarpi, che non usa fare certe cose. Perché la toppa deve essere rasata. Ma no, ma chi l'ha detto? Dai. Ma su. Lo dico io. Ma no, dai, Sgarbi ha torto. Allora, Cruciani, dai, vai in Svizzera, ti do io qualche indirizzo giusto per andare in Svizzera. Sì, ma c'è tanta privato. Gente che mi sta chiamando, mi sta mandando messaggi, mail, ti diamo noi gli indirizzi. Me li ha dati Razzi, mi ha dato gli indirizzi giusti, i bordelli giusti, dai. A Lucerna e a Zurigo dove andare, li conosce tutti. D'altra parte, Razzi. L'esperienza è l'esperienza, c'è poco da fare. Forza Razzi in questi posti, metti due donne a confronto, una per l'altra, una no, ma non esiste. No, ma non esiste, purtroppo non esiste l'alternativa lì. Baciare una donna con i baffi. No, vabbè, che c'entra la donna con i baffi? Ma allora, scusa, anni fa che succedeva? Scusa, spiegami. Anni fa nessuno si scandalizzava. Insomma, io voglio dire che secondo me anche un fatto proprio, oltre che di igiene, che quel professore, il dottore che diceva che le donne emanano, per cui sono tutte stronzate. Tu sei fatto pubblicità sul libro, ma sono cazzate. La donna deve essere lavata, pulita e depilata. Bah, e basta una donna e capisci la differenza. Bah, io non credo che sia. A proposito, tu hai, Antonio, hai pistole? Tu, no? Cioè, ti armi? Cioè... Io ho la pistola sempre. Cioè, in che senso? È la mia. Eh? Quella è la pistola. Ah, tu dici altro che pistola quella vera. C'è quello genuino. C'è la pistola quella autentica. Altro che pistola. Altro quella che spara. Armi io non lo conosco perché non so manco come funziona. Cioè, altro che armarsi. Ma come che Buonanno armarsi, che va in televisione. Tu c'hai la pistola tua, dici. Io con la pistola mia vai avanti. Vabbè, ormai è in disarmo la pistola tua. Beh, ormai è in pensione. È in pensione da quando mi sono sposato. Ma poi sta cosa che uno va in pensione da quando si sposa, sì, poi il rispetto verso la donna che tu ami. Capito, Parenzo? Sì, no, ho capito, lui è andato in pensione. È andato in pensione. Ma senti, ma secondo te, io vedo sempre nelle città, Antonio, che stai a fare? Sempre distratto con questo telefonino, fermo. Quando nelle città, vedo sempre che ormai ci sono sempre più le rotonde nelle città, no? Le rotonde, quando si va a guidare. Ci sono delle persone che dicono le rotonde vanno bene, altre che dicono le rotonde... Tu che dici? Rotonde per molti è un problema. Perché? Perché molte volte si intana tutto. E chi ci vede lì fermo e bloccato? Chi? Che ne so? Chi si blocca? Noi che vedi Parenzo o Cruciano lì che sta in prima fila. Passo o non passo? Passo o non passo? Chi sono? Sempre una donna. Ah, tu dici che le donne sono negate. Come diceva mio figlio Jonathan, quello che stava in Svizzera, donna al volante, disco volante, no? Lo sapeva dire. Cioè tu dici che le donne sono negate, dici. No, sono quelli che sono bravi, ci mancherebbe. Però la maggior parte però, sono... maggior parte, vedi, anche sull'autostrada, che devono andare minimo a 80, ti vanno a 30-40, magari tu fai un sorpasso, ti trovi a 140-160, paf, devi rifrenare perché ti trovi qualcuno. Dice, ma quello è sicuro. Sicuramente, me lo dice anche mia moglie, ma noi e a te io vado sempre piano perché sono sicura. Sì, ma dopo tu intralci il traffico perché... Scusa, le rotonde tu trovi sempre una donna che sta lì ferma e non sa che cosa fare. Ma sì, perché magari siccome arrivano quelli che non, una donna, non guarda anche un uomo può non essere capace. Sì, di... sì, no, ci sono anche uomini. Però tu dici chissà perché poi no, quando ci vedi sono, la... ci sono anche uomini imbranati, che ci mancherebbe vabbè. Altro. Però dopo ci sono uomini che se ne approfitta perché vede che è una donna, dice questa qui non sa, sicuramente si ferma e scappa con la macchina e cerca di passare per prima la rotonda e senza sapere che chi è dentro la rotonda. La rotonda, sì. Ha ragione, ha la precedenza. Capito, chi si entra non c'ha più precedenza. Grazie, sono cose importanti. Ma io dalla Svizzera lo facevo già da molti anni. Questi, in Italia è nuovo, ma io in Svizzera già 50 anni fa guidavo la macchina. Non c'è dubbio. Antonella Perugia, vai. Sì. Niente, buonasera, io avevo chiamato facendo una piccola eccezione perché capisco che la vostra è una radio privata, quindi ovviamente dei vostri soldi ne fate quello che volete, che volete, però mi domando se pagate Parenzo, cioè lo pagate molto? Parecchio, lo paghiamo, abbastanza, sì, lo paghiamo. Sembra il giusto. Lo paghiamo, perché dici? No, perché si potrebbero impiegare meglio quei denari, perché insomma... Può essere, sicuro. Tutto si può fare nella vita, tutto si può essere. No, perché dice tante banalità, le dice male, molto volgarmente. E tra l'altro, cosa che trovo veramente spregevole, anche considerando che basterebbe acquistare uno specchio e forse già questa cosa, forse la pianterebbe. Si potrebbe uno specchio, sì, si comprerà uno specchio perché sento attaccare le persone sul lato fisico. E invece lui non ha la caratteristica adatta. Beh, insomma, potrebbe avere un minimo di pudore dato come si presenta. Insomma, no, ma diciamo, ma sul lato fisico raramente mi sono permesso, diciamo. Sì, soltanto con buon anno oggi. Lei si permette, guardi, come quando ho sentito qualcuno parlare fare lo stesso tipo di apprezzamento nei confronti di Brunetta, il quale uno può apprezzarlo come persona o meno, no, ma è veramente vergognoso, mi riferivo a buon anno. Sì, ma lei si riferiva a buon anno. Beh, hai detto nano a buon anno. Sì, infatti forse ho sbagliato. Sindaco nano. Ho sbagliato, insomma, molte cose. No, comunque, ma va bene, per me ci può anche stare nella polemica, adesso pentirsi un'ora e mezza dopo non ha senso. Potete dire tutte le volontà che volete, ma veramente ci sono delle cose oltre le quali non si può andare. Vabbè, adesso Antonella, a noi non è costruttivo. Problema a noi di essere costruttivi non ce ne frega un cazzo. Antonio da Milano, dai Antonio. Questo lo so. E allora che ci viene a fare la lezione a noi? Antonio Milano, vai. Sì, salve, buonasera. Dimmi. Niente, volevo fare un intervento sulla vicenda di Vaprio. Vai. Io non ho ascoltato tutto la trasmissione. Non ma, c'è bisogno, vai. Ecco, mi chiedevo se questo signore qui che ha sparato non può chiedere i danni allo Stato, visto che questo ragazzo che è stato ucciso era stato espulso e non è stata seguita la sua espulsione. Non lo so, mi sembra una cosa un po' bizzarra. Era stato espulso, poi se n'è andato ed è tornato. Adesso non so se fosse irregolare, probabilmente era irregolare. Ma uno può chiedere danni allo Stato per qualsiasi cosa, per carità. Cioè... No, perché voglio dire, lo Stato in che modo tutela i cittadini? Ma no, per carità. Se non si occupa di espellere fisicamente le persone. Sì, assolutamente. Cioè, voglio dire, questo era. No, ma per me è una vergogna che ci sia solo un clandestino dentro il territorio nazionale, figuriamoci, un libero magari di fare il cazzo che vuole, come spesso succede in Italia. Infatti. Ragazzi, ancora voci dal Consiglio Comunale di Napoli, perché vi voglio fare incazzare proprio in chiusura di trasmissione, Consiglio Comunale di Napoli, si discute ancora di questa storia dei biglietti, cioè hanno ridotto questi consiglieri comunali di Napoli lo stadio un cesso, una merda, un gabinetto sono parole utilizzate cesso dal presidente del Napoli De Laurentiis, eppure pretendono ancora di andare allo stadio gratis, cioè dovrebbero pagare loro il triplo, il quadruplo per andare allo stadio, così rimettere a posto, ma non ci riuscirebbero nemmeno. Ma com'è che l'hanno ridotto così? Cioè non l'hanno mai messo a posto, manutentuto? Ma sì, ma se ne fottono per incuria, per sciatteria, perché spendono i soldi. No, ma è strano, perché invece i napoletani ci tengono molto al calcio, i napoletani in generale. Sì, ma la proprietà è del comune, ma non c'è una cosa del comune di Napoli che funziona, capisci? Ma invece i napoletani, se c'è una cosa credo alla quale tengono molto, è proprio il loro Napoli. Senti l'avvocato di Maradona, Pisani, che è presidente di una zona, sì, e che probabilmente anche lui va allo stadio col biglietto gratis. Presidente della zona di Gomorra, lui, esatto, di Scampia. Anche lui, che è tra l'altro una persona che conosco, va allo stadio col biglietto gratis. Ma senti qual è la motivazione per andare gratis allo stadio. Che mondo è mondo, e dal tempo dei romani esistono palchi riservati alle autorità, è normale che poi ci si inviti i rappresentanti delle istituzioni. Tempi dei romani ci sono i palchi per le autorità, questo è Pisani, dai tempi dei romani. Sì, è vero, anche quando i gladiatori sfidavano i leoni al Colosseo, però. Dai. Ma tu vai allo stadio gratis, Santò? Io cerco di non andarci. Perché? Perché appunto non... Vai allo stadio gratis, quando vai a Pescara vai a gratis. No, dice, molte volte mi invitano, c'è il maestro che ha 4-5 biglietti comprato e il maestro mi dice vieni con pagare, me. Te dovrebbero pagare. E mi dice vieni con me che mi tieni compagnia. E io vado che devo sempre ringraziare il nostro maestro Ferrante. Vabbè, andiamo, Mauro Vicenza, vai. Mauro, dimmi. Ciao, senti, io adoro il professor Sgarbi, ma questa volta credo abbia toppato con il fatto della barbetta in mezzo alle gambe delle donne. Perché dici? Perché vedi, tu hai la barbetta, barba, è stupenda, Luciani. La barbetta è stupenda, Tu hai la barba, Luciani? Sì, certo, certo con la barba. Ma, te la tagli però? Te la tagli la barba? Ah sì, ma non è la stessa cosa però, amico mio, dai. Come non è la stessa cosa? Se il signore te l'ha data, beh, tu te la tagli e quindi vuol dire che fai una cosa che è contro natura. Ma che vuol dire? Ma non è così, dai, su, dai. Ma dai, Cruciani, è la stessa cosa. E se la donna si vuole tagliare la barbetta in mezzo alle gambe, lasciamogliela fare. Ma chi dice di no? Io adoro le donne sbarbate in mezzo alle gambe. Cioè, tu adori le donne depilate. Madonna, è una cosa, guarda, è indescrivibile. Meglio la depilata. Ma perché tu hai provato? Quanti anni hai, Mauro? Ne ho 63 di e anni. E perché a 63 anni tu hai conosciuto solamente quelle pelate, cioè quelle pelate, no, quelle no, col no. pelo? Beh, no, sì. No. Poi di recente sei passato all'incasso con quelle altre, per questo è la novità per te, capito? Per te sì, è una novità. È una novità per me quelle sbarbate, diciamo, no? Appunto. È una cosa meravigliosa. Ma come tutte le cose nuove. Ragazzi, ci sentiamo lunedì. Ciao. Devo fare un saluto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.